Azione. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Azione, punto, punto. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Radioazione. Radioazione. La stessa sera, quando a pochi chilometri sta accadendo qualcosa di irreale, i refrattarius sono seduti intorno alla tavola a bere vodka e a studiare le cartine che hanno recuperato a casa di Armi. Na 013 è piena di tunnel che portano da una parte all'altra della metropoli. In particolare ce ne sono tanti che dalla zona portuale salgono per qualche chilometro fino ad arrivare al grande bosco in cima al centro storico. Arnie tenta di spiegare le carte agli altri, ma ormai nessuno più lo segue perché le due bottiglie di vodka hanno toccato il fondo. E quindi c'è chi dorme con la testa sul tavolo e chi fa finta ancora di seguire le spiegazioni. Ok, vedo che l'argomento vi interessa. Con tutta questa vodka penso che sognerete di fare la rivoluzione russa. Buenas noches, compas. Arnie si alza molto lentamente per non svegliare gli dormienti. Entra nel furgone dove c'è Beatrice che dorme profondamente. Il mattino seguente il furgone deve essere restituito e Beatrice è la sola che lo può consegnare dato che è stata lei a noleggiarlo. Arnie nel frattempo ha anche un conto in sospeso. Il refrattario deve recuperare il sacco che ha nascosto nella siepe ai confini con il quartiere futuristico DFC. Dopo un po' che tentenna nello svegliare Beatrice, si fa coraggio e molto delicatamente, avvicinandosi all'orecchio della ragazza, la sveglia. Hola! Il tempo di dire una parola e Beatrice ricasca nel sonno profondo. Allora Arnie molto più decisamente scuote la ragazza per una spalla. Beatrice, hai ragione, scusami, ma tu stanotte non puoi dormire qui. E dove dormo? A casa tua, ma solo stanotte, domani ritorni qui o con me o da sola. Posso capire che ti prende, Arnie? Forse ti sei dimenticata che stai dormendo in un furgone che hai preso a noleggio. No, me lo ricordo bene, ma non pensavo di restituirlo. Eh? Ci hai dato anche tu di vodka stasera? No, di Matè. E comunque il furgone l'ho preso non con i miei documenti, ma... Ma che cazzo hai combinato, Beatrice? Forse è arrivato il momento di dirti la verità. La verità? Mi parli di verità la prima sera che sei qui con noi e con i miei compagni che non me la faranno mai passare liscia? Parla ora, voglio sapere tutto e subito, Beatrice. La ragazza allora si mette seduta con la schiena appoggiata alla parete del furgone, si lega i lunghi capelli neri e prende Matè che è appoggiato di fianco al cuscino. Prima dà una sorsata alla bevanda, poi accende una sigaretta e guarda negli occhi Arnie. Non mi chiamo Beatrice. Il mio nome è Ashlyn, ma si scrive Aileen, significa bambina di fuoco. Mia nonna mi ha mandato in Italia tramite suoi vecchi amici e compagni, con un passaporto falso dopo che i miei genitori sono diventati desaparecidos. Io mi salvai perché quella notte i miei erano andati ad un'assemblea studentesca clandestina e mi lasciarono a casa della mamma di mio padre. Lei è una vecchia refrattarius, quindi appena hanno sequestrato i miei genitori, non ci ha pensato su due volte a far diventare anche me una desaparecidos. Ma nel mio caso lo sono stata per la dittatura. Aileen, si dice Ashlyn. I due finalmente accennano ad un sorriso. E quindi tu non sei mai tornata al tuo paese? Ora ci potrei tornare, ma oramai sono qui da quando avevo 2 anni. Fino a 18 anni sono stato con quelli che sono per me i nuovi genitori, anche se per l'età potrei definirli nonni. Vorrei tanto farmi chiamare con il nome che mi hanno dato i miei genitori e liberarsi del passaporto di Beatrice potrebbe essere l'inizio della nuova vita. Ecco perché ho preso a noleggio furgone con i miei documenti. Vuoi il tuo vero nome? Sì. E che sia così, da oggi sei di nuovo Ashlyn. I due tornano a ridere sullo sbaglio di Arnie, ma stavolta sul volto della ragazza sembra apparire un sorriso che esce dal cuore. Anche una lacrima appare sugli occhi di Ashlyn. Lascia stare le lacrime, Arnie asciuga gli occhi della ragazza e poi facendo l'occhiolino. Stasera facciamo piangere qualcun altro. La stessa razza che ti ha tolto i tuoi veri genitori, quelli che ti hanno tolto la gioia di chiamarti con il tuo vero nome fino ad ora. C'è qualche ex sicario di Videla da queste parti? No, o perlomeno non lo so, potrebbe anche darsi che qualche pezzo di merda tra i vertici dei Taskok abbia a che fare con le storie argentine. C'è del sacco nero che hai lasciato stamattina sotto la siepe? Arnie non risponde con le parole, ma dà un bacio sulla fronte alla ragazza. E allora, hai ancora sonno? Non posso dormire sapendo che stasera posso prendermi una piccola vendetta. Allora ti do 15 minuti per sistemarti. Intanto chiamo quegli altri due che stanno tracannando ancora vodka là fuori. Non ti preoccupare, ci impiegherò anche di meno. Anni esce dal furgone e trova Mark e Lucky che fumano, bevono e chiacchierano ininterrottamente da un'ora. Certo che la vodka ne fa dire di cose. Sei diventato proibizionista, Anni, per caso? Mark risponde ad Anni molto ironicamente. Assolutamente no, vorrei sapere solo se siete in condizione di finire il lavoro che abbiamo iniziato stamattina. Veramente aspettavamo te per sapere di più. Tra 10 minuti allora si va. Aki sembra aver capito le intenzioni del suo amico e per avere un'ulteriore conferma chiede ad Anni se serve portare attrezzi. È tutto già sul posto, pronto. Ok, allora conservo la bottiglia di vodka in frigo, bisognerà pur festeggiare al ritorno. Nemmeno 10 minuti ed i tre, insieme ad Aishelen, che per gli altri è ancora Beatrice, mettono in moto il furgone e molto lentamente riscendono al retromarcia il breve sentiero che li mette sulla strada principale. Durante il viaggio, che dura circa una 15 minuti, Arnie spiega i dettagli di quello che ha in mente agli altri suoi compagni che lo seguono in questa avventura. Il segno dipinto con la bomboletta la mattina precedente si nota a malapena e fortunatamente nessuna auto vi è parcheggiata. Il furgone si muove per gli ultimi 100 metri a fari spenti, poi accosta e parcheggia accanto alla siepe. I quattro saltano tutti dietro al cassone, nel cassone, al buio, dove Anni dà le ultime indicazioni. Ashlyn resta in furgone con le chiavi inserite nel quadro e pronta a saltare al posto di guida appena gli altri faranno ritorno. Anni con Mark e Lucky, molto silenziosamente, escono dalla portiera laterale del furgone e si infilano sotto la siepe dove è legato il sacco nero che viene aperto. I 10 candelotti di dinamite e un detonatore sono pronti per urlare la loro rabbia contro la civilizzazione nel centro futuristico, che è popolato più che altro da uffici di vario genere. Là vi sono tutti gli organi del sistema capitalistico nazionale ed europeo. Inoltre c'è il quartiere generale, dove si riuniscono le più alte autorità governative e di Talspok. Ed è proprio là che i tre refrattarius stanno andando. Questa è la volta buona che ci verranno a cercare anche sottoterra. Le parole dette con molta ironia e con una risata silenziosa provoca le risa altrettanto silenziose di Mark e Dalmi. Cazzo, finisce Aki, con un po' di serietà ogni tanto, non ci facciamo scoprire sul più bello. Anni ride, ma è anche un po' teso. È il sogno degli ultimi anni quello di svegliare con la dinamite i bastardi intoccabili dell'unità speciale. Arrivati a pochi metri dall'obiettivo, i tre si fermano per inserire il detonatore nella dinamite e il timer, perché sarebbe stato molto pericoloso farlo 100 metri prima. È molto pericoloso, la dinamite non è così facile da far brillare. Potresti anche fumare sdraiato su una montagna fatta di candelotti. Per esplodere ha bisogno di un buon detonatore che, se difettoso, crea danni a chi gli sta nelle vicinanze. Un ultimo sguardo tra i refrattarius e poi, approfittando dei porticati, arrivano all'edificio. Fortuna per i tre è che qualcuno ha lasciato il portone aperto, quindi il piano cambia in un attimo. L'esplosivo verrà portato dentro e non più fuori dall'edificio. Mark e Aki posizionano i candelotti nel sottoscala velocemente. Intanto Anni prende da un sacchetto di plastica che aveva in tasca una busta da lettera e la lascia incastrata tra le maglie di ferro del portone. I tre vanno via a passo veloce verso il furgone. Hanno 5 minuti per allontanarsi. Ashlyn vede i suoi tre amici e salta al posto di guida tenendosi con la schiena bassa per non farsi vedere da nessuno, fino a quando non sono pronti per partire. I tre salgono sul furgone, Ashlyn mette in moto e sta per andare quando Anni la ferma per un braccio e le fa segno di aspettare. Anni, sei il solito testa di cazzo, anche in questo ti devi guardare. Mark ha capito al volo cosa intende fare il suo amico. Ovvio, non ci dormo da anni ed ora me lo godo. Se vuoi, inizia a scappare a piedi e si lascia andare in una risata sguaiata. Vaffanculo, ce la godiamo tutti con un brindisi. A chi tira fuori la bottiglia di vodka che aveva finto di mettere in frigo. Qualche secondo dopo, uno spostamento d'aria accompagnato da un boato fortissimo fa tremare il furgone. I quattro al buio nel furgone esultano e dopo qualche secondo levano le cosiddette tende nell'euforia generale. La dinamite ha eseguito il suo lavoro. Mezza facciata dell'edificio è venuta giù in una frazione di secondo. Il crocifisso posto in cima al campanile della chiesa che si trova di fronte all'edificio colpito si stacca e precipita nel vuoto per conficcarsi nella pavimentazione grigia. I soccorsi arrivano dopo circa 15 minuti. decine di pettuglie di Tarspok li accompagnano e si mettono a protezione di quello che resta dell'edificio. Navig, in un movimento poco agevole dato dal suo fisico grasso e flaccido, esce dalla sua auto e va oltre il cordone di uomini topo. Non dice una parola e non fa altro che guardare l'edificio mezzo sventrato. Servono le ruspe per recuperare la maggior parte delle vittime dell'esplosione. Qualcuno addirittura viene trovato a 50 metri dall'edificio. Un Tarspok si avvicina al generale di nascosto, porge nelle mani di Navig una busta gialla. Generale, l'ho trovata là davanti ed era infilata nelle grate del portone dilaniato. Mi ricorda la busta dell'esplosione a Duomo. Se sono stati loro, ti giuro che... Mentre parla, il generale apre la busta e tira fuori il foglio bianco che vi è contenuto. Il Natale Nero non poteva continuare solo con l'abbattimento dei Re Magi. Stanotte abbiamo deciso di attaccare la grotta col Nascituro, colui che porta la repressione nel mondo. Anche se siamo in giugno, vi auguriamo un buon Natale Nero. Refractarius. Radiazione, diretta d'azione 9 giugno, lunedì 9 giugno, diretta d'azione come ogni lunedì è iniziato con il racconto di Nazero 13, la nuova puntata si legge un po' per volta, anche perché lo scrivo un po' per volta e quindi ovvio che è così. Prima di racconto siamo andato anche uno dei brani che insieme al racconto ad ottobre si spera di far uscire a Benefit, a racconto e CD, fatto tutto in casa da sottoscritto, Benefit per i compagni detenuti. Allora ricordiamo gli indirizzi utili per Radiazione, radiazione@distici.org per chi vuole mandare scritti, comunicati, notizie di controinformazione, oppure consigli però per la prossima stagione sui libri da leggere. Ci avete di tempo per pensarci, chi segue, a chi piace seguire le letture su Radiazione, quindi pensateci, guardate il sito, vedete di cosa tratta il sito, che cosa abbiamo letto fino adesso, e quindi fatevi un'idea bene o male dei libri che ci piace leggere su radiazione, che non sono testi anarchici, perché altrimenti si cadrebbe nello scontato, quindi si preferisce altre letture, altre anche romanze. Testi anarchici, testi anche anarchici che evocano, che danno suggestioni e che speriamo contribuiscano. Infatti sì, speriamo. Il sito invece è radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente, dove potete scaricarvi opuscoli, cd e altro materiale attraverso la pagina download, o riascoltare le dirette d'azione attraverso i podcast, o ascoltare la diretta in diretta attraverso il lettore flash player in sidebar, o attraverso il banner che trovate ogni giorno della diretta su Radiazione. Oggi non c'era, mi sono dimenticato, pecca. Quindi resta il lettore flash player per oggi. Ricordiamo che Radiazione è anche in lingua croata, per chi interessa c'è un banner sempre sulla sidebar in cima, ci cliccate sopra e vi si apre il sito in lingua croata, per chi ci capisce, per chi vuole forse imparare il croato, a chi interessa imparare il croato. No, nota bene, la diretta non è in croato. La diretta non è in croato, purtroppo. Quei compagni che ci seguono da quelle contrade. Purtroppo, se la compagna che portava il sito di radiazione croato un giorno si deciderà di fare una diretta interamente in croato, allora esisterà anche radiazione in croato per quanto riguarda le dirette. Allora, oggi lunedì, quindi come dicevo, giorno di controinformazione, musica, ma soprattutto di letture. Stiamo leggendo I Sabotatori, per chi non ha ascoltato fino ad ora il racconto I Sabotatori, il racconto di Edward Abbey. Siamo arrivati già oltre la metà, quindi si spera per metà luglio di portare a termine, anche perché già oggi si muore. Sebbene le nuvole non siano mancate, ma sono arrivate delle nuvole, ma purtroppo ci sono ancora, ci sono le nuvole grigie sul cielo sopra la stanzetta con tanto di aria viziata, però fa un caldo boia, quindi speriamo che per metà luglio si porta a termine tutto, anzi porteremo a termine tutto, perché non ce la facciamo. Allora, ora ci ascoltiamo un brano dei KMFDM, con il brano è Dirty, poi dopo si torna qui, Marcello vi farà prima un riassunto delle puntate precedenti e poi inizierà subito il nuovo capitolo di I Sabotatori di Edward Abbey. Join my little war. You could be my broken heart. Allora ci scusiamo perché avevamo lasciato il microfono chiuso, quindi si è perso tutta la parte introduttiva. E allora ricominciamo da dire che l'ultimo brano che avete ascoltato era Dirty dei KMFDM, sporco. Questo brano, come sporche sono le azioni della nostra batteria che stiamo seguendo, e nelle loro attività di sabotaggio dell'aggressione alla terra e alle risorse naturali del centro degli Stati Uniti a metà degli anni 70, avevamo lasciato le attività di questa batteria che stiamo seguendo, da un lato con George Washington Heidak e Bonnie Abzug, che hanno appena deciso di attaccare una delle centrali del disboscamento per far spazio a miniere, autostrade, o per trasformare semplicemente gli alberi in combustibile o in carta per alimentare le macchine da scrivere e poi le stampanti. Il dottor Service, l'altro componente della batteria, è invece ad Albuquerque a svolgere un po' contraddittoriamente la propria vita di medico chirurgo, ma che con i guadagni finanzia e alimenta questo tentativo di sabotaggio, che fino adesso ha dato i suoi frutti anche notevoli. E mentre Seldon Sin, che è il quarto componente della batteria, sta prendendosi un periodo di pausa, perché lui, essendo mormone di origine sociale ma non di adesione religiosa, ha però sposato tre donne diverse, per cui ogni tanto deve farsi rivedere da questi nuclei che lui ha contribuito a seminare lì per lo Utah. E adesso continuiamo con Gli stranieri nella notte, o come dicono nelle parti anglosassoni, Strangers in the Night. Heidak parcheggiò la sua jeep nascosta tra i pini vicino all'ingresso dell'area disboscata e piazzò Bonnie sul cofano, dando l'istruzione di tenere gli occhi aperti e le orecchie tese. Lei annuì pazientemente. Indossò il casco, la tuta da lavoro, la pistola e la cintura per la pistola, i guanti da lavoro, prese una piccola torcia e i suoi altri attrezzi e scomparve dai cinque sensi di Bonnie nel buio crepuscolo dell'area disboscata, svanendo come un'ombra tra le macchine giganti. Lei voleva leggere, ma era già troppo buio. Per un po' canticchiò sottovoce e ascoltò gli strilli degli uccelli sconosciuti e invisibili, uccelli della foresta, che si ritiravano nei loro nidi per la notte, con le teste reclinate sotto l'ala protettiva, abbandonati nei sogni semplici e innocui del sonno aviario. La foresta sembrava eterna. Quel vento, si era fermato da un po', e l'immobilità, mentre gli uccelli si chetavano, divenne più acuta e più profonda. Bonnie era consapevole delle altre presenze che la circondavano: i dolenti pini gialli, la personalità grave e trasandata delle pice di Engelmann e degli abeti bianchi, le loro alte corone slanciate come guglie di una cattedrale ad angolazioni diverse, perché tutto ciò che sale deve divergere, e slanciate verso quel lussurioso schieramento di palle di fuoco delle stelle di prima magnitudine che ornano mentre illuminano, facendo del loro meglio il vasto interno del nostro universo in espansione. Bonnie credeva di averlo già visto prima, e quindi si rollò e poi si accese uno spinello. Ma nel frattempo, George Washington Heidak, veterano delle forze speciali, prigioniero nel Vietnam e complice dei Vietcong russi, stava ormeggiando sotto la pancia di un bulldozer con una chiave a settore spropositata, tentando di aprire il foro di scarico della coppa dell'olio di un bulldozer Ellis Chalmers HD41, che è molto semplicemente il trattore più grosso di tutti quelli fabbricati dalla Ellison Chalmers. La sua chiave era lunga un metro, l'aveva prelevata dalla scatola degli attrezzi del trattore, ma comunque non riusciva a svitare quel dado. Si allungò allora per prendere il suo arnese. Un tubo d'acciaio di un metro, lo infilò come un cappuccio sopra il manico della chiave e tirò di nuovo con tutte le sue forze. Questa volta il dado si mosse una frazione di millimetro, tutto quello di cui aveva bisogno. Heidak allora diede un altro strattone e il dado cominciò a girare fino ad ora. Non aveva fatto nulla di drammatico, limitandosi a seguire le procedure di routine dove era possibile, come nel caso di questo HD41, decise di svuotare l'olio del motore mettendolo in moto solo al momento di andarsene. Considerando il fattore rumore del sabotaggio, non aveva chiavi, ma supponeva di trovare ciò di cui aveva bisogno nel caravan adibito ad ufficio. Un altro giro del dado e l'olio cominciò a fuoriuscire. Hydak si scostò portandosi dietro il tubo con la chiave infilata e gli si gelò il sangue. «Che stai facendo, compare?» disse la voce di un uomo bassa e profonda a non più di 6 metri di distanza. Hydak cercò di raggiungere la pistola. No, non farlo!» L'uomo fece scattare un interruttore puntando il fascio di una potente torcia elettrica direttamente negli occhi di Hydak. «Ho questo!» spiegò portando sotto il fascio di luce la canna di quello che era, con ogni evidenza, un fucile calibro 12. «Eh sì, è carico!» disse. «Ed è svelto e irritabile come un serpente a sonagli!» si interruppe. Hydak attese. «Ok», disse l'uomo. «Adesso vai avanti e finisci quello che stavi facendo là sotto.» «Finisco! Forza, muoviti!» «Ma stavo cercando una cosa», disse Hydak. L'uomo rise, una risata piacevole e rilassata, ma non priva di minaccia. «È così allora», disse. «E ora mi devi spiegare cosa cazzo speri di trovare sotto il motore di un benedetto bulldozer in questo buio?» Hydak rifletté attentamente. «Era... davvero una bella domanda.» «Beh», disse, e si fermò. «Ci stai pensando adesso? Fai con comodo.» «Beh», disse. Sì, continua, mi sembra un buon inizio.» «Beh, certo, stavo cercando... beh, sto scrivendo un libro sui bulldozer e pensavo che avrei dovuto vedere come sono fatti anche di sotto.» «Stiamo peggiorando adesso. E come sono fatti?» «Beh, sono pieni di grasso.» «Questo, compare, avrei potuto dirtelo io, ti avrei evitato qualche problema. E che ci facevi con in mano quella chiave inglese da 1 metro? Ah, forse è con quella che tu scrivi il tuo libro.» Hydak allora non disse nulla. «Ok», disse l'uomo. «Adesso ricomincia e finisci quello che stavi facendo.» Hydak esitò. «Dico sul serio, svita quel dado, fai uscire l'olio.» Hydak obbedì. Il fucile, del resto, era puntato sulla sua faccia come il raggio della torcia. Un fucile a quella distanza è un argomento molto convincente. Si diede da fare, svitò il dado, l'olio fuoriuscì viscido, denso, libero, sopra e dentro il terreno smosso. «Adesso», disse l'uomo, «molla giù la chiave, metti le mani dietro la testa ed esci da là sotto strisciando sulla schiena come se fossi un crotalo.» Hydak obbedì. Non era facile uscire da quella posizione senza usare le mani, ma lo fece. «Adesso rotola sulla faccia.» Hydak obbedì di nuovo. L'uomo si sollevò dalla posizione accucciata, si avvicinò, sfilò la pistola di Hydak, fece un passo indietro e tornò in posizione accucciata. «Ah, ok», disse. «Adesso puoi girarti e metterti seduto.» Esaminò l'arma di Hydak. «Ruger 357 Magnum. Beh, una bella bestia, non c'è che dire.» Hydak lo fronteggiò. «Non c'è bisogno che mi spari quella luce direttamente negli occhi.» «Hai ragione, compare.» Lo sconosciuto spense la torcia. «Scusami.» Rimasero uno di fronte all'altro nell'improvvisa oscurità, ciascuno domandandosi forse chi aveva la visione notturna più rapida e migliore, ma lo sconosciuto aveva l'indice appoggiato al grilletto del fucile. Potevano vedersi abbastanza bene alla luce delle stelle. Nessuno, quindi, si mosse per un po'. Poi lo sconosciuto si schiarì la gola. «Non sei mica un fulmine quando lavori», si lamentò. «Ti ho osservato e ti sto osservando da quasi un'ora.» Hydak non disse nulla. «Mi sembra che però tu abbia fatto un buon lavoro nel complesso. Questo lo apprezzo.» L'uomo sputò a terra. «Non come gli sfigati che ho visto al fiume Powder, o quei ragazzini giù a Tucson, o quei coglioni che hanno fatto deragliare... come ti chiami?» Hydak aprì la bocca. «Henry Lightcap», pensò. «Joe Smith.» «Che te ne pare?» «Lascia perdere», disse l'uomo. «Non lo voglio sapere.» Hydak fissò con maggiore concentrazione la faccia davanti a lui, 3 metri distante sotto la luce delle stelle che gradualmente diveniva più chiara. Vide che lo sconosciuto indossava una maschera, non una maschera nera che gli copriva gli occhi, ma una semplice grossa bandana legata come facevano i fuorilegge a coprire naso, bocca e mento. Sopra la maschera un occhio destro scuro con dei lampi vaghi lo studiava da sotto la tesa cascante di un cappello nero. L'altro occhio rimaneva chiuso come in una sorta di perenne strizzatina. Haydak alla fine si rese conto che l'occhio sinistro dell'uomo se n'era andato, non c'era più, perduto e dimenticato senza dubbio in qualche rissa di bar o in qualche guerra leggendaria. Lethal injection. We strap the guy up. We anesthetize him with shot number one, then we give him shot number two, and that implodes his lungs, and shot number three stops his heart. We put him to death just like an old horse. His face just goes to sleep while inside his organs are going through Armageddon. The muscles of his face will twist and contort and pull. You see, shot number one relaxes all those muscles, so we don't have to see any horror show. We don't have to taste the blood of revenge on our lips. While this human being's organs writhe, twist, and torn. We just sit there quietly, not our heads. Part of the job. Christmas gets what's coming to. I understand what they're talking about. They call me, you know? I want to provide them. A lot of times, I know they're changing their diet mind, but I want my mama to know. I want my mama. I ain't gonna get no chair there. You're gonna try. And I'm gonna watch you. Thank you. E questi erano Unit 187 con il brano Capital Punishment. Ora, dopo la lettura, la prima lettura per oggi di dei Sabotatori di Edward Debbie, si passa alla controinformazione andando in Spagna, dove ci sono degli aggiornamenti per Francisco e Monica. Innanzitutto volevo precisare che prima ci eravamo dimenticati di alzare il master in uscita, e quindi noi sentivamo la voce in cuffia, però ovviamente non usciva. C'è stato un riassunto delle puntate che non ascolterete mai. Che non ascolterete mai. Allora, passiamo all'aggiornamento su Francisco e Monica, con un testo che arriva dalla Spagna, che dice: salutiamo quelli che continuano a portare complicità e chiunque si avventura verso l'ignoto, chi è motivato da incertezza, chi si ostina per l'anarchia. A loro il nostro rispetto e affetto. Monica Caballero e Francisco Solar, due dei cinque anarchici arrestati lo scorso novembre e accusati di aver messo una bomba presso la Basilica del Pilar a Saragozza, sono in custodia cautelare in attesa di processo. Pochi giorni fa gli è stata negata una richiesta di scarcerazione su cauzione, quindi restano in carcere sempre sotto il regime PS3 in attesa di giudizio, che non si sa quando avverrà. Stiamo aspettando che li autorizzino alle telefonate intercarcerarie, praticamente tra di loro, dopo che gli sono state negate varie volte. A quanto pare dal prossimo mese potranno farle, anche perché la comunicazione già tra i due è già piuttosto lenta, le lettere che si scrivono impiegano circa un mese per arrivare. Inoltre continuano ad avere un limite di 2 lettere settimanali da inviare. Approfittiamo per ricordare che prossimamente ricorre il compleanno dei due compagni, Monica il 18 giugno e Francisco il 4 luglio, quindi se qualcuno gli vuole mandare messaggi, cartoline, disegno o qualsiasi altra cosa, supponiamo che saranno benvenuti nella situazione in cui si trovano. Non inviare altre cose, in quanto hanno il limite sulle cose che possono entrare, e se qualcuno gli invia un libro o qualcosa del genere, per esempio nel caso di Monica può ricevere un solo pacco mensili, quindi approfittiamo per mettere tutto il necessario e quello raccolto durante il mese. Poi sotto l'articolo che trovate pubblicato sul sito di Radiazione ci sono anche gli indirizzi per scrivere ai due compagni, che si trovano uno a Brieva da Viglia e un altro a Villabona. Sottolineiamo che consideriamo nei tempi in cui viviamo che cosa significa scriversi 2 lettere mensili, che cosa significa non potersi telefonare, e che il PS, come altri metodi di reclusione, come altri metodi di carcerazione, impattano proprio su questo aspetto della non comunicazione, quindi qualunque gesto, qualunque tipo di vicinanza in questo caso ben accetta. Quindi questa era la prima notizia di controinformazione per il giorno. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono i Ministri con il brano New VO, e poi dopo si ritorna qui con il nuovo, con una nuova lettura di Sabotatori di Edward Ebey. Ma tu chi sei? Domandò Haydak. L'uomo mascherato che lo teneva sotto tiro col fucile parlò in un tono al tempo stesso sorpreso e offeso. Non vuoi saperlo davvero, perché questa non è una domanda gentile. Silenzio, si fissarono a vicenda. Lo sconosciuto rise fra sé e sé. Scommetto che pensavi che io fossi il guardiano notturno, vero? Ti ho fatto sudare, almeno un po', eh? Ma perché, dov'è il guardiano? Là. Lo sconosciuto mosse un pollice indicando il caravan dell'ufficio lì vicino, dove era parcheggiato anche un pick-up con le insegne della società sulle portiere. E che sta facendo? Niente. Io l'ho legato mani e piedi come un maialino e gli ho tappato la bocca con un cerotto. Sta bene. Rimarrà così fino a lunedì mattina. I taglialegna e i boscaioli torneranno e quindi lo slegheranno. Ma lunedì è domani. No, è oggi. Sì, è vero. Avrei già dovuto togliere le tende. E come sei arrivato qui? Per questo genere di lavori a me piace usare il cavallo. Non è veloce forse, ma è molto più silenzioso. E seguì un'altra pausa. Che cosa intendi? Disse Haydak. Per questo genere di lavori. Quello che stavi facendo tu. Certo, tu che stavi facendo quello del genere di lavori fai un mucchio di domande. Ti va di incontrare il mio cavallo? No, perché voglio indietro la mia pistola. Ok, e lo sconosciuto gliela restituì. Però la prossima volta ti conviene tenere la tua vedetta un po' più vicino. Perché dov'è? Haydak assicurò nuovamente la pistola alla cintura. Ah, esattamente sulla jeep dove l'hai lasciata a fumarsi le sue sigarettine di Maria Juana. Almeno prima era lì. Lo sconosciuto si fermò per controllare la notte che li circondava, poi si rivolse di nuovo ad Haydak. Qui c'è altro che ti può interessare, disse, pescando nella sua tasca e passandogli un mazzo di chiavi. Adesso puoi far partire quei motori e farli fondere per benino. Haydak fece tintinnare le chiavi, guardò verso il caravan ufficio. Sei sicuro che il guardiano non può più dare fastidio? Beh, vedi tu, lo ammanettato, incaprettato, incerottato, ubriacato e inlucchettato. Ubriacato, già, era già mezzo partito quando sono arrivato. Dopo averlo immobilizzato l'ho costretto a scolarsi tutta la bottiglia di Bourbon che si stava ciucciando. Gli è passato lo spavento e poi... Quindi l'ho legato, incaprettato ma felice. Ecco perché nessuno ha risposto quando ho bussato. Haydak guardò lo sconosciuto mascherato che si era alzato in piedi, in apparenza pronto ad andarsene. Una voce acuta, tesa e agitata si levò nell'oscurità. «George, tutto bene?» «Tutto bene!» le strillò. «Stai dove sei, Natalie? Continua a controllare la situazione e ricorda che mi chiama Leopold!» «Ok, Leopold!» È caduta la connessione. È arrivata con un po' di ritardo, ma è arrivata. Riprendiamo... a leggere I Sabotatori. Edward Harvey, eravamo nel momento in cui Haydak fece tintennare le chiavi guardando la massa scura del trattore al suo fianco. Non sono sicuro di come far partire questa cosa, disse, e l'uomo mascherato rispose: ti darò una mano, non ho molta fretta. Lontano dal bosco, da qualche parte, un cavallo scalpicciò, sbuffò e nitrì. L'uomo ascoltò, girò la testa in quella direzione. Tranquilla, Rosie, arriverò e ti slegherò fra un minuto. Poi si voltò verso Haydak. Andiamo! Salirono sul sedile di manovra del grande trattore. Riprendendo le chiavi, lo sconosciuto ne scelse una e sbloccò la piastra di accesso dietro i pedali del freno sul pavimento del comparto dell'operatore. Mostrò ad Haydak l'interruttore principale e lo accese. A differenza del Caterpillar vecchia maniera di Hyde Marina, questa macchina veniva avviata completamente dalla potenza di una serie di batterie. Ok, disse l'uomo mascherato. Adesso schiaccia quel pulsantino laddove c'è il cambio della velocità. Haydak pigiò il pulsante, l'avviatore solenoide ingranò il pignone dell'avviatore della corona dentata di differenziale del volano. Il turbo diesel 12 cilindri a 4 tempi Cummins si ravvivò. Con un colpo di tosse, la potenza di 28.000 centimetri cubi di pistone riempito, Haydak era invisibilio. Tirò indietro la leva del gas e il motore prese a girare con regolarità, ma scaldandosi rapidamente. Penso di far qualcosa con questa macchina, annunciò lo sconosciuto. Stai già facendo qualcosa, disse questi. No, pensavo di spostare un po' di cose in giro. Allora è meglio se fa in fretta, avrà un'autonomia di qualche minuto. Lo sconosciuto diede un'occhiata al quadro strumenti. Pressione dell'olio zero, temperatura del motore in aumento. Si poteva già sentire uno strano rumore inquietante come il lamento di un cane malato. Haidak sbloccò la leva della sicura e tirò la leva delle velocità, inserendo la marcia. Il trattore si impuntò in avanti contro la pala del bulldozer abbassata, sospingendo una tonnellata di fango e due ceppi di pini gialli in un lato dell'ufficio della Georgia Pacific. Non così, urlò lo sconosciuto. Là dentro c'è un uomo, per Dio. Ah, giusto. Haidak allora bloccò la macchina, abbandonando il suo carico impilato alto contro la parete deformata del caravan. Inserì la retromarcia e il trattore indietreggiò, urtando il pick-up della Georgia Pacific. Il camion si ribaltò come una lattina di birra. Lui ci passò sopra con il bulldozer, stritolando la carcassa nella vegetazione decomposta. Poi Haidak si guardò intorno, sotto la luce delle stelle alla ricerca del prossimo obiettivo. «Vedi cosa puoi fare con quel nuovo trattore Clark per il treno dei tronchi», suggerì l'uomo mascherato. «Adesso controllo». Haidak sollevò la pala del bulldozer, fece girare su se stesso la macchina e partì a tutto gas, 8 km all'ora, contro il nuovo Clark trattore. Questo si accartocciò con un ricco e soddisfacente crunch di carne d'acciaio e ossa di ferro. Fece ruotare il trattore di 200 gradi e lo puntò contro un'autocisterna piena di carburante diesel. Qualcuno gli stava urlando dietro. Qualcosa gli stava urlando dietro. Avanti tutta! Il trattore fece un balzo in avanti corrispondente a un giro del rullo dentato e si impiantò. Il blocco motore grippò, un getto di vapore schizzò fuori sibilando drammaticamente. Il motore lottava per la vita. Qualcosa esplose all'interno del collettore e una vampata azzurrognola venne espulsa dal fumaiolo, lanciando lapilli di fuoco verso le stelle. Bloccati all'interno delle loro camere, i 12 pistoni divennero una cosa sola, saldati e fusi con i cilindri e il blocco motore un'unica inamovibile massa molecolare entropica bianca incandescente. Tutti per uno, uno per tutti, l'urlo continuò. 51 tonnellate di trattore che urlavano nella notte. Si è fusa, disse l'uomo mascherato. Non possiamo farci niente. Si spostò a quattro zampe sul retro e scese sotto gli scarificatori da 8 tonnellate. Andiamo, gridò, sta arrivando qualcuno, e svanì nell'oscurità. Haidak si riprese e smontò dal trattore. Sentiva ancora qualcuno che gli urlava dietro. Bonnie! Lei lo afferrò per una manica, puntando a distanza verso il bosco. Non vedi? Strepitò. Luci, luci, che ti succede? Haidak scrutò nel punto indicato, poi riprese il braccio. Di qua! Corsero attraverso la zona disboscata in mezzo ai ceppi, verso il riparo della foresta, mentre un camion giungeva rombando nell'aria sgombra. Le luci di posizione brillavano, un riflettore spazzò l'aria mancandolo di un soffio. Quanto basta, adesso erano nel bosco tra alberi amici. Mentre cercavano la strada al buio nella direzione in cui lui riteneva fosse la jeep, Haidak sentì un tuonare di zoccoli. Qualcuno passò in groppa ad un cavallo lanciato in pieno galoppo. Il camion, che si era fermato di fianco al bulldozer fischiante, scaricò un po' di uomini. Uno, due, tre, quattro, impossibile contarli nell'oscurità. Haidak ed Apzug videro un riflettore sondare la zona disboscata, gli alberi alla ricerca del cavallo. Ancora troppo tardi, il cavaliere venne inquadrato per un istante, poi fuggì nel fitto della foresta e giù per la strada cavalcando fino al termine della notte. Una pistola abbaiò. Una volta, due, in un'inutile dimostrazione, e poi tacque. Il battito degli zoccoli si attenuò nella distanza. Gli uomini del camion si spostarono per prestare assistenza a qualcuno all'interno del caravan che stava scalciando contro le pareti. Ebbero qualche difficoltà, certo, a farlo uscire con quella montagna di detriti ammassata contro la porta chiusa. Che diamine era? domandò Bonnie. Il guardiano, suppongo. No, intendevo il tipo a cavallo. Bah, non lo so, ma eri con lui, sì, disse Aidak. Non... ero con lui, ma non so niente di lui. Chiudi la portiera, andiamocene di qui. Aidak accese il motore. Ci sentirà? Ma disse, no, con quel bulldozer che ulula non sentiranno niente. Guidò tra gli alberi a luci spente, sfruttando il chiarore della notte stellata, lentamente, e raggiunse la strada principale della foresta, dirigendosi verso l'autostrada Nord Rim. Quando sentì di essere a distanza di sicurezza, accese i fari e schiacciò sul pedale dell'acceleratore. La Jeep, ben carburata, borbottava sommessamente nella corsa. Davvero non sai chi era quell'uomo? Non lo so, tesoro. Tutto quello che so te l'ho detto. Chiamiamolo Kemosabe. E che razza di nome sarebbe? Beh, è una parola paiute. E che significa Kemosabe? Significa coglione. Oh, un'ideone perfetta. Ho fame, dammi da mangiare. Ma aspetta. Allontaniamoci ancora di qualche chilometro. E su quel camion, chi c'era? Non lo so, e non voglio certo tornare indietro per scoprirlo. Tu sì? Decise di stuzzicarla. Tu sì, mia mitica vedetta. Ascolta, disse lei, non rompermi le palle con questa storia. Volevi che stessi con la Jeep e questo ho fatto. Stavo controllando la strada come volevi tu. Ok, fece lui. Allora taci, ok? E fammi divertire, perché mi sono annoiata. Ok, senti, questo è un vero dovinello. Che differenza c'è tra il Lone Ranger, il ranger solitario, e Dio? Bonnie ci pensò mentre procedevano sferragliando verso il bosco. Si rollò una sigarettina, ci pensò e ripensò. Alla fine disse: che indovinello stupido, mi arrendo. Aidak disse: la differenza è che il Lone Ranger, il ranger solitario, esiste davvero. Non capisco. Si piegò e l'afferrò e la strinse a sé. Lascia perdere. È quel signore che tutti chiamiamo signore, che non esiste. E questi erano Sparta con il brano Downwards. Ora torniamo alla controinformazione con una dichiarazione che arriva dalla Grecia del compagno Spiros Mandilas, fatta al tribunale speciale del carcere di Korydallos. Allora, prima di tutto voglio dire che appoggio il mio compagno Andrea Savaridis e i miei 10 compagni e amici della cospirazione delle cellule di fuoco. Per quanto riguarda le circostanze di questo processo, voglio commentare due cose. Il fatto che un processo politico, si svolge nell'aula speciale all'interno della prigione di Korydallos. Il fatto che i nostri compagni, per assistere al processo, hanno dovuto dare i loro dati di identità alle autorità. Per quanto riguarda il mio caso, voglio dire che sono stato preso di mira e arrestato nel contesto di un'atmosfera di paura imposta dallo Stato agli anarchici, e specialmente alla corrente di cui anche io faccio parte, la corrente della nuova anarchia. Con il mio caso, in questo processo, sarà messo in luce il fatto che senza alcuna prova solida sono stato accusato di far parte di un'organizzazione terroristica a causa di incontri pubblici che ho organizzato mentre ero membro dello squad anarchico Nadir a Salonicco. Sarà dimostrato che la democrazia non considera i menzionati progetti meno minacciosi dell'azione diretta, ma alla fine li criminalizza e perseguita, essendo un contributo molto importante nella continua insurrezione anarchica. Inoltre, non è la prima volta, voglio dire che questo intende a diventare una pratica internazionale. La campagna repressiva riguardo al progetto Fenice ha molte rassomiglianze con le operazioni Shadow e Ardire in Italia di 2 anni fa, quando alcuni compagni che gestivano siti web e giornali furono accusati per il contesto di questi progetti. Per quanto riguarda la mia tesi e il mio punto di vista sulla guerriglia urbana e la cospirazione delle cellule di fuoco è il seguente. L'insurrezione anarchica è portata avanti con ogni mezzo possibile, sia esso un libro, una bomba, un'esecuzione politica. Posso anche non far parte delle CCF o della Federazione Anarchica Informale, ma questo non significa che non sono d'accordo con questo modo di agire. Tengo a distanza da me l'aforisma della lotta armata e il feticismo della non violenza. Quindi il mio arresto mira a isolare i gruppi armati dell'essere pubblicamente diffusi e a distruggere il ponte tra la parte pubblica e clandestina della continua insurrezione anarchica. In ultimo, voglio dire che non avrò parenti o amici come testimoni di difesa per dire che sono un bravo ragazzo eccetera eccetera, perché essendo politicamente perseguito l'unica difesa che accetto è promuovere personalmente la mia azione politica. Spiros Mandilas, 4 giugno 2014. E questo era il testo letto dal compagno durante l'udienza del processo che è iniziato sul progetto Phoenix. Dopo leggeremo anche una dichiarazione delle CCF in merito a tale processo. Ora, per ora è tutto, quindi ci ascoltiamo un brano. Loro sono Lights of Euphoria con il brano Flight to Target, e poi dopo si ritorna qui con il libro di Edward Ebbe, I Sabotatori, e dopo ancora la lettera delle CCF sul progetto Fenice. What's happening here? War is happening. Suffer. Hajduk ed Abzug campeggiarono illegalmente, non era permesso nemmeno accendere un fuoco, contro tutti i regolamenti, lontano dal bitume, giù per una strada con barriere antincendio e sotto i pioppi. Si svegliarono tardi e fecero colazione a letto. Gli uccelli cantavano, il sole splendeva, eccetera, eccetera. Poi, più tardi, lei disse: adesso voglio qualcosa da mangiare. E allora lui la portò per il brunch al No Dream Lodge. Consumarono succo d'arancia, cialde di pecan, uova fritte all'occhio di bue, patate abbrustolite nell'olio bollente, prosciutto, toast, latte, caffè e Irish coffee con un ciuffo di prezzemolo ciascuno. Tutto era meraviglioso. Lui la portò fuori sulla terrazza del lodge e le mostrò la veduta dal margine superiore del Grand Canyon del Colorado. Pazzesco! Se vedi il Grand Canyon li hai visti tutti, assentì lui, e la portò a Cape Royal, Point Imperial e infine a Point Sublime, dove campeggiarono illegalmente la seconda notte. Mentre il sole legalmente calava ad ovest, loro guardarono giù nell'abisso sbadigliante, profondo 2000 metri. «Quell'abisso sta sbadigliando a me», osservò Hajduk. «Io sonno», disse lei. «Cristo, è solo il tramonto, che ti succede? Io non lo so, però schiacciamoci un bel pisolino prima di andare veramente a letto». Era stato un fine settimana intenso. Si sdraiarono per riposare ancora un po'. Dal fondo profondo, molto più in fondo, trasportato dal vento, giungeva l'applauso delle rapide di Boucher. I gambi secchi e i gusci dei semi vuoti della yucca vorticavano nella brezza, sul bordo roccioso, sotto le stelle. I pipistrelli si tuffavano e zigzagavano, squittendo, cacciando insetti, concedendosi un po' di evasione, volando per la propria vita. Nel buio del bosco lanciava il suo grido un volgare uccello notturno, i succhiacapre. Si alzavano in volo contro il maestoso tramonto, si dibravano nell'aria disegnando cerchi e tuffandosi improvvisamente in cerca di insetti, con le ali che facevano il rumore di un toro lontano, mentre riprendevano bruscamente coda dopo i loro tuffi a capofitto. Per questo li chiamano anche qualcosa come pipistrelli toro. Dentro al fitto della foresta, nella penombra dei pini, un tordo eremita chiamava. Chi chiamava? Con toni da flauto traverso, il poeta dello struggimento, e trovava una pronta risposta dall'altro uccello, il clown, il corvo, la creca del kaibab, con un rumore simile a quello di un agricoltore che si soffia il naso. Si passarono il placebo di lei avanti e indietro con movimenti esasperatamente lenti, rallentati, follia da erba. I love you, Maria Juana. Ascolta, mormorò George Washington Hajduk, il cuore corrotto, il cervello danneggiato da troppa bellezza, amore, tenerezza, stupefacenti, figa, tramonto, scenografia di canyon e note, flautate del bosco. Ascolta, sai una cosa, Bonnie? Che cosa? Lo sai che noi non siamo obbligati a fare quello che stiamo facendo, lo sai? Lei aprì gli occhi appesantiti. Non siamo obbligati a fare che? Non siamo obbligati a rischiare l'osso del collo. Ci stanno dando la caccia, capisci? Mi uccideranno, non avranno altra scelta. Cosa? Chi? Di che stai parlando? Se continuiamo, potremmo andare nell'Oregon, ho sentito che là ci sono ancora esseri umani, potremmo andare in Nuova Zelanda a levare agnelli. Lei si sollevò sui gomiti. Stai dicendo a me? Sei fuori di testa? Stai male o cosa, George? Quante... molla quello spino. Chi sei tu, in ogni caso? Perché parli? I suoi occhi stonati la fissarono da 50 chilometri di distanza, le pupille marroni scuro, grandi come pedine della dama, fish del poker, funghi, morelle magiche. Lentamente il largo sorriso luccicante e diabolico apparve, maligno come quello di un lupo nel crepuscolo azzurro fumo. «Gli uomini mi chiamano», disse, la lingua spessa e paralizzata come il tubero di una rapa. «Gli uomini? Gli uomini ti chiamano?» disse lei. Lui riprovò da capo. «Mi chiamano? Ci sono persone che mi chiamano?» Si portò un dito sulle labbra intorpidite. «Shh! Che mosa!» «Il coglione! Giusto!» disse lui, facendosi con la testa pesante come roccia e sorridendo felice, e rise e andò giù di nuovo di fianco a lei. Si buttarono giù insieme, ridendo, allungandosi scompostamente sulla massa soffice del loro piumino d'oca matrimoniale. La mattina lui si era ripreso. Padroneggiava di nuovo il suo io diabolico e sfrenato, a dispetto di un distruttivo mal di testa da marijuana. «Torniamo al lavoro», brontolò svegliandola. «Questa settimana abbiamo 3 ponti, una ferrovia, una miniera a cielo aperto, una centrale elettrica, 2 dighe, un reattore nucleare, una banca dati informatica, 6 progetti di autostrada e una spettacolare postazione del BLM. Su, su, su! Preparami un po' di caffè, cazzo, o ti rispedirò nel Bronx». Tu e chi altro, pallone gonfiato? Ma poi si diressero a nord, fuori dal parco nazionale e dentro la foresta nazionale, la proprietà di tutti gli americani amministrata per voi dai vostri amichevoli ranger forestali. Il loro cartello con Smokey Bear, l'orsetto, era stato rimosso. Arrivati al lago Jacob si fermarono per fare benzina e riempire la cassa di birra. «Ritorno alla normalità», pensò Heidach, «e spedire qualche cartolina illustrata, nonché incriminante». Avanti, alla biforcazione fuori del bosco, Heidach prese a destra, in direzione est, giù per la piega monoclinale, verso il deserto rosso marziano, galleggiando sulle onde di calore della House Rock Valley. Compiaciuti con se stessi e con il mondo, guidarono giù e lontano attraverso il deserto e su per il Caibito Plateau e a sud-est oltre Page, per vedere cosa stavano combinando quelli della Black Mesa and Lake Powell Railroad. Nascondendo la jeep fuori strada vicino all'incrocio con il Caibito Canyon, proseguirono quindi a piedi in direzione nord per un paio di chilometri, inoltrandosi nella psichedelica luce solare Navajo. In lontananza videro la ferrovia. Correttamente orientati, arrivarono ad un punto sopraelevato sulla roccia scivolosa, dal quale, grazie al binocolo, poterono studiare i progressi dei lavori di riparazione sul ponte del Caibito Canyon, già danneggiato da loro. «Ma l'energia elettrica l'hanno già attivata», disse lui. «Fammi vedere». Attraverso il binocolo lei vide le rotaie, il treno utilizzato nei lavori di ripristino, una grande gru Bacicross Airy verde che sollevava travi a doppio T da un carro piatto, facendole roteare sul suo letto e calando le travi sulla spalla del ponte ricostruito. Ingegneri, tecnici, operai brulicavano come formiche per il sito di lavoro. La linea dell'alta tensione ricongiunta e tirata su di nuovo rimaneva sospesa nello iato del canyon, portando la corrente ad alto voltaggio a coloro che ne avevano bisogno. I carri di carbone nell'ombra, impilati l'uno sopra l'altro come le auto dallo sfascia carrozze, aspettavano di essere eventualmente recuperati. «È un'organizzazione determinata», commentò Bonnie. «Adesso sappiamo», pensò, «come costruirono le piramidi, come vide la luce la grande muraglia cinese, e sappiamo anche il perché». «La centrale elettrica vuole quel carbone», disse George, «e quello che vuole ottiene PJ&E. Hanno bisogno dei loro Frosties. Dobbiamo fermarli di nuovo, Hubzug, lo sai?» Tornarono sull'autostrada attraverso il tavolato di arenaria, procedendo a fatica sui tratti sabbiosi. Arrivarono alla jeep nascosta tra gli alberi del deserto, dove uno stormo di ghiandaie dei pini si sollevò salutando il loro arrivo come confetti ad una cerimonia nuziale. «Attrezzi, guanti e caschi!» abbaiò Haida. «Che attrezzi?» Ma come che attrezzi? Pinze? Per tagliare il filo spinato è la motosega. Dying. E questi erano Sama Tenser con il brano Friendless Land. Ora si ripassa alla controinformazione con prima due brevissime notizie, una dall'Italia che riguarda Alfredo Costi e Nicola Gai, che avrà il processo d'appello per i due compagni, avrà luogo a Genova nelle seguenti date: il 27 giugno, il 4 e l'11 luglio. Solidarietà ai compagni prigionieri. Ora invece un'altra breve notizia riguarda la Grecia, dove Babis Tsilianidis è stato assolto dall'accusa di rapina. La corte ha ritenuto l'anarchico Babis Tsilianidis non colpevole per l'accusa di rapina presso il dipartimento economico dell'ospedale di Haepa, in quanto erano dubbiosi per il suo coinvolgimento nel caso. Ricordo che il compagno era accusato giusto per una bandana trovata, il DNA, una cosa allucinante. Fuoco a tutte le celle, solidarietà con i detenuti in lotta. Ora invece la notizia, quella un pochino più lunga, perché si tratta di una dichiarazione, ed è quella delle CCF per il processo sul progetto Fenice. Leggiamo la dichiarazione: in questi due anni questo è il quarto processo contro le CCF. Abbiamo avuto il processo per il caso Ralandri, che per aver inviato pacchetti per i 250 attacchi, e adesso il processo per il progetto Fenice. Ovviamente tutto questo dimostra l'ira e la vendetta delle autorità contro di noi, creando una morsa giudiziaria soffocante intorno a noi con i processi ricorrenti. Processi in cui siamo accusati due e tre volte per lo stesso reato. Questo processo però mostra una caratteristica diversa rispetto a quelli precedenti. Questo è il processo per l'operazione di guerriglia progetto Fenice, realizzata mentre noi eravamo già detenuti nelle carceri dello Stato. Naturalmente questo non è la prima volta che siamo accusati di istigazione durante la nostra detenzione, accuse prive di ogni logica anche secondo la vostra stessa cultura giuridica. Stiamo parlando delle incriminazioni vendicative contro di noi per i testi pubblici divulgati dal carcere, come il testo in solidarietà con lo scotto anarchico Nadir, e il testo in cui noi rifiutiamo di scusarci e riconoscere le autorità giudiziarie. Certamente non possiamo tralasciare il culmine del colpo giudiziario, che è il prolungamento indefinito della custodia cautelare dei nostri quattro compagni della cospirazione: Gerasimos, Jorge, Olga e Teofilos, i quali, nonostante abbiano superato il limite previsto di 18 mesi, rimangono ancora in carcere. In specifico, Gerasimos è detenuto da 43 mesi, mentre Jorge, Olga e Teofilos più di 36. Non diciamo tutto questo in tono denunciatario per la violazione dei nostri diritti democratici. Potete tenerveli i vostri diritti. Non crediamo né nelle vostre leggi né nella vostra democrazia. Inoltre, questo è il motivo per cui non abbiamo avvocati. Però non rimarremo in silenzio di fronte all'ipocrisia della vostra giustizia. È importante che le allucinazioni finalmente finiscano. Con o senza le prove è stato dimostrato che l'autorità vuole distruggere fisicamente, moralmente e politicamente la cospirazione delle cellule di fuoco, come anche quelli che ci sostengono. Abbiamo scelto fin dall'inizio di vivere la guerriglia urbana anarchica con questa sfida e rimandarla al nemico mille volte. Finché respiriamo la cospirazione delle cellule di fuoco, non firmerà mai la tregua nella guerra che è stata dichiarata contro lo Stato e la sua società. Ci troviamo oggi in quest'aula del Tribunale perché circa un anno fa abbiamo mandato un saluto pubblico al compagno delle CCF non ancora preso, quando una bomba ha colpito il direttore del carcere di allora. Quelli che hanno sollevato l'accusa contro di noi per l'istigazione forse hanno pensato che questo ci avrebbe impaurito, che avrebbe abbassato le nostre voci e la nostra statura. Si sbagliavano. Questo è il motivo per cui oggi, attraverso quest'aula, sapendo che quello che diciamo sarà pubblicato e troverà il modo e la via per raggiungere compagni non presi e ricercati, ripetiamo per la millesima volta: compagni, la battaglia continua, creiamo migliaia di nuovi nuclei, migliaia di nuovi attacchi. Siamo qua presenti per tre motivi principali. Il primo motivo è che non vogliamo in nessun caso che la legge e il codice penale distorgono la cospirazione delle cellule di fuoco, la FAI e il progetto Fenice, presentandoli a misura dei loro piedi. Finora, sotto il nome di progetto Fenice, ci sono stati 13 attacchi esplosivi e incendiari in Grecia, Russia, Indonesia, Cile, Messico, Germania e in Italia. Quindi il progetto Fenice è la prova vivente che l'insurrezione anarchica continua continua, non è né soppressa né imprigionata né processata, anche se talvolta cade, rinascerà di nuovo dalle sue ceneri come la Fenice. La rinascita della guerriglia urbana in Grecia è già accaduta. Il secondo motivo per cui ci troviamo qui è per stare accanto al nostro compagno Andreas Savaridis, che si è rivendicato la spedizione del pacco bomba all'ex capo dell'unità antiterrorismo come un atto del progetto Fenice. Noi non discuteremo la miseria dell'istigazione di cui siamo accusati. L'istigazione presuppone una struttura gerarchicamente organizzata e significati come capi, ordini, regole, con riferimenti alla mafia e al crimine organizzato. L'istigatore è il cervello, il principale. Noi siamo anarchici, senza capi e seguaci. Andreas è un nostro complice e confederato nel costante crimine della ribellione e della rivolta anarchica. Il terzo motivo è il sostegno dell'anarchico Spiros Mandylas. Spiros è un amico e un compagno, ma non ha niente a che fare né con la cospirazione delle cellule del fuoco né con la FAI e il progetto Fenice. Arrestando Spiros, l'unità antiterrorismo voleva colpire il discorso anarchico pubblico, riconoscendolo come parte integrante della lotta alla guerriglia urbana anarchica. Vogliamo in questo modo isolare il nostro pensiero e le nostre parole dai processi pubblici e contemporaneamente per impaurire gli anarchici solidali e dimostrare che la presenza e il sostegno anarchico ai detenuti delle CCF sono sufficienti a far attraversare a qualcuno il cortile del carcere. L'accusa contro Spiros è un'accusa puramente vendicativa, perché lui è rimasto un anarchico coerente, senza impaurirsi e abbandonare il valore della solidarietà, come molti altri hanno fatto. Alla fine di questa dichiarazione non aspettatevi che parliamo dell'innocenza o della colpa. Non siamo né innocenti né colpevoli. Noi siamo nemici dello Stato, dell'autorità, della macchina sociale, della subordinazione e della schiavitù volontaria. Noi siamo anarchici della prassi ed eterni nemici delle vostre leggi, prigioni e tribunali. Noi sappiamo che l'insurrezione è spesso un percorso solitario e difficile, però avremo scelto comunque lo stesso percorso, non importa quante volte avremo vissuto. Tutto continua, a considerazione delle cellule di fuoco, FAI e FRI, cellula dei membri imprigionati, 4 giugno 2014. E questo era il testo, il secondo testo che arriva all'indomani dell'udienza del progetto Fenice. Abbiamo letto quella del compagno Spiros Mandylas e ora quella delle CCF. Ora ci ascoltiamo un brano. Intanto voglio ricordare che siamo sempre in attesa delle notizie che sarebbero già dovute arrivare dal Cila e purtroppo non arrivano. Molto spesso si bombarda con iniziative, aggiornamenti su udienze di pagine chilometriche, però ora c'è stata una sentenza e vorremmo sapere come è andata a finire. Quindi speriamo che i compagni da Cile ci fanno sapere come è finita il processo sul caso Security, che vede imputati i compagni Freddy, Marcello e Juan. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Second Voice, Another Footlights Attempt, e poi dopo si ritorna qui con il racconto di Edward Ebbey, I Sabotatori. Armati ed equipaggiati, masticando carne secca, biscotti di fichi e mele, marciarono verso la ferrovia, ma questa volta seguendo una rotta diversa. Ventre a terra sopra una duna, osservarono sfilare un convoglio di lavoro diretto a Pagi per fare scorte. Il treno scomparve dietro una curva. Bonnie rimase di vedetta con il binocolo in mano sotto un fronzuto ginepro mentre Hydak si avviava al lavoro. Arrivò ai binari. Strisciando nella sabbia, tagliò la recinzione per il bestiame, scostò un cespuglio di amaranto e si diresse al palo dell'alta tensione più vicino. Come tutti gli altri, il palo era ancorato al terreno mediante dei cavi. Hydak guardò in su verso Bonnie, lei diede il segnale di via libera, allora lui avviò la motosega e, rumorosamente ma con grande rapidità, tagliò una tacca profonda alla base del palo. Spense la motosega, guardò Bonnie e rimase in ascolto. E lei gli diede il segnale che non c'erano problemi. Hydak allora trotterellò verso il palo successivo dove eseguì lo stesso tipo di taglio. Una volta terminato, fermò il motore per un controllo incrociato con la sua vedetta. Ok, ne intaccò altri tre. Solamente i cavi metallici tenevano in piedi i pali. Stava per attaccare il sesto palo quando, con la coda dell'occhio, notò che Bonnie, troppo distante per essere sentita sopra il rumore della motosega, stava facendo dei movimenti frenetici di allarme con il braccio. Nello stesso istante il suo sesto senso, addirittura prima dell'udito, gli fece percepire l'odiato e temuto di un elicottero. Fermò la motosega e si infilò con essa sotto la sponda della massicciata nel cumulo di amaranti alti fino alla vita che riempivano il fossato. curvandosi e accartocciandosi sotto di essi, desiderando di essere invisibile, estrasse la pistola e si preparò ad una morte eroica. L'elicottero superò la cresta montuosa e il suono divenne improvvisamente più pesante, temibile, inquietante. L'aria tremava mentre la macchina gli passava sopra la testa una trentina di metri, sbattendo come uno pteranodonte. La turbolenza schiacciava Hydak a terra. Era convinto che fosse giunta la sua ora, ma la cosa, quella cosa meccanica, riprese il volo. Sbirciò attraverso i cespugli e vide l'elicottero ritirarsi, seguendo la convergenza dei binari verso est. I pali intaccati dell'alta tensione oscillarono leggermente nella sua onda, ma non caddero. L'elicottero se n'era andato. Lui aspettò. Nessun indizio di Bonnie. Anche lei doveva essersi imboscata da qualche parte. Attese fino a che anche l'ultima impercettibile vibrazione della macchina dell'aria fu svanita. Mentre il suo terrore svaporava, sentì crescere dentro di sé il vecchio, futile e incontenibile senso di offesa. Li odio, si disse George Hydak sotto il sole dell'Arizona. Li odio tutti. Nel momento in cui aveva sentito quel dragone dal naso gibboso avvicinarsi, un ricordo soprattutto aveva attraversato lo schermo della sua mente. Vicino a una strada polverosa in Cambogia, i corpi di una donna e di un bambino fusi insieme in una massa nera carbonizzata dal napalm. Si alzò in piedi, l'elicottero non c'era più. Agitò un braccio in direzione di Bonnie, che era sbucata da sotto un albero. «Torna indietro!» le indicò, ma sembrava che lei non capisse. «Torna indietro!» le urlò. «Torna alla jeep!» Lei stava scuotendo la testa. Hydak decise di lasciar perdere. Uscì in qualche modo dal fitto di amaranti, risalì la masseggiata fino al palo successivo, diede uno strattone al cordino dello start della motosega elettrica e il motore gorgogliò. Hydak poggiò la spranga di guida contro il palo, pigiò il pulsante del lubrificatore e fece scattare la levetta dell'alimentazione. La motosega ringhiò come un gatto, i denti cromati penetrarono nel legno tenera. Prima un taglio obliquo a 45 gradi, poi un altro orizzontale che si incrociava con il primo a metà strada nel cuore del palo. 8 secondi, spense il motore, liberò la motosega. Un cuneo di legno di pino, occhiacci di legno, non mi guardate, rotolò a terra. E via con un altro, e un altro ancora. Si fermò per guardare ed ascoltare. Niente, nessuno in vista, tranne Bonnie, in alto sulla cresta, sopra la linea ferroviaria, ora a 500 metri, da dove era praticamente impossibile comunicare a voce. Hydak seguì altri 3 pali, ed erano 8. Si fermò di nuovo a guardare e ascoltare. Nessun suono tranne quello del suo stesso respiro, delle gocce di sudore, del canto del sangue nelle sue orecchie. Ancora una volta fece segno a Bonnie di andarsene. Ancora una volta lei ignorò il comando. Ok, pensò lui, e quindi adesso giù. Aveva intaccato 11 pali, doveva bastare. Era arrivato il momento di staccare i cavi metallici. Nascose la motosega sotto il ginepro più vicino e tirò fuori le pinze per tagliare il filo spinato. Utilizzando le pinze come un argano manuale, svitò i tenditori che tenevano i vari cavi ancorati al terreno. Eseguì l'operazione seguendo la linea palo dopo palo. Arrivato al numero 9, la batteria di pali intaccati cominciò a piegarsi, e al 10 cadde. E caddero all'interno, sui binari, trascinati dal peso della linea elettrica cantilever. Un istante prima dello schianto, Hydak vide una scintilla azzurra da 50.000 volt coprire con un balzo lo spazio che separava il cavo dell'alta tensione dai binari. Penso a Dio. Quale Dio? e poi il clang della collisione, come 88 pianoforti a coda che avessero deciso di suicidarsi contemporaneamente, e infine il puzzo dell'ozono. Tutta l'elettricità giù e fuori uso. Risalì, aiutandosi come poteva la sponda, ripassò dentro la recinzione e si avviò verso sud, sopra la roccia scivolosa tra i ginepri pieni di ammirazione. Stretta nella mano destra teneva la motosega, in quella sinistra invece le pinze. Si fermò adesso e poi sotto il riparo degli alberi per guardare e ascoltare. Da qualche parte lungo la linea qualcuno doveva già essersi messo in contatto radio con l'elicottero, passando la parola: allarme, allarme generale. Ma Bonnie dov'era? Guardò ma non riuscì a vederla. Se era spaventata anche la metà di quanto lo era, lui doveva essere già a metà strada verso la Jeep. Spaventato sì, e anche felice. Spaventato ma felice, pensa Hyde, cansando come un cane, la lingua ciondolante. Si mise a correre sprintando nei punti esposti, fermandosi sotto gli alberi a riposare, avido d'aria, ad ascoltare i suoni del cielo in ascolto, orgoglioso come una torta. Si fermò di nuovo a respirare. Un grande uccello nero con una grande bocca cominciò a cantare. George Aidak, ti beccheranno, ti impiccheranno a testa in giù, non puoi nasconderti, non puoi fuggire, non puoi far niente che loro non sappiano già. Sono per le strade che ti cercano, scendono la ferrovia perché ti cercano, spulciano le loro banche dati per rintracciarti, su in cielo sono lì che ti cercano, refractari. Sei un'oca finita, George Aidak, un vagabondo malconcio, sei un'anatra fottuta, uomo, non sei più uomo, sì. Aidak lanciò una pietra contro l'uccello logorroico. Questo si allontanò in un batter d'ali, cianciando come un clown. Le ali sbattevano pesantemente sull'aria fine, facendo wok, wok, wok, wok, producendo un suono forte, forte, wok, wok, wok, wok, wok, wok, wok, wok. Sono su nel cielo. Loro sono lì e ti cercano. Bye. Seldom Sin torna a casa, cambio quindi di scenario. Green River, Utah, casa di Susan, il ranch dei cocomeri. Un giorno di macchina comodo da dove viveva Sheila, a Bountiful, che a sua volta era un giorno di macchina comodo dalla casa di Kathy nei paraggi di Cedar City. Ovviamente Seldom, lui, aveva pianificato tutto in quel modo fin dall'inizio. Seldom Sin Smith aveva prestato attenzione al profeta Brigham. Era poligamo come un coniglio. 3 del mattino e il letto era pieno di sogni. Oh, perla costosa! Attraverso le finestre spalancate giungeva il profumo dei cocomeri maturi, il dolce odore di erba medica tagliata, anche gli odori pungenti e irrevocabili di meli, merda e quina e di asparagi selvatici lungo i canali di irrigazione. Dall'argine distante, solo un campo giungeva il suono dei salici sussurranti, il piatto della coda di un castoro che schiaffeggiava l'acqua del fiume. Quel fiume, quel dorato Green River che scendeva dalle nevi della Wind River Range attraverso Flaming Gorge and Echo Pass, Split Mountain and the Gates of Lodore, giù dalle colline di Owyukuts, Tayampa, Bitter Creek e Sweetwater, giù per il canyon chiamato Desolation, attraverso il Tavapats Plateau, per riemergere dall'apertura delle Book Cliff, secondo John Wesley Powell, una delle facciate più splendide del mondo, e da là rotolare lungo il Green River Desert, in un secondo mondo di canyon dove il fiume si concede al Labyrinth, Stillwater alla Conference con il Grand sotto il bordo di The Maze e profondità tonanti di Cataract. Smith era sdraiato nel suo letto di fianco alla sua terza moglie e sognava il suo sogno tormentato. Gli erano di nuovo le calcagna. Il suo furgone era stato identificato, le sue rocce erano rotolate troppo lontano. La squadra di ricerca e soccorso era furibonda. Un mandato per il suo arresto era stato emesso nella contea di San Juan. Il vescovo di Bleding, furioso come un toro affetto da stenosi, aveva setacciato metà Utah. Smith fuggiva giù per i corridoi infiniti di cemento sgocciolante sudore, sotto la diga, intrappolata nel sogno ricorrente di quella diga. Giù, nelle viscere umidici dell'ufficio per l'approvvigionamento idrico e idroelettrico, ingegneri su skateboard gli sfrecciavano accanto con le clipboard in mano. Pannelli pneumatici si aprivano davanti a lui e si chiudevano al suo passaggio, trascinando Smith sempre più in fondo nel cuore pulsante del nemico. Reti magnetiche lo tiravano verso l'ufficio interno, dove il direttore in attesa aspettava lui, come Doc e Bonnie e George, anche loro rinchiusi da qualche parte lì dentro. Smith sapeva che sarebbe stato punito. L'ultima porta si spalancò, Smith venne trascinato all'interno, la porta si rinchiuse, sigillandosi lui si ritrovò di nuovo davanti all'occhio supremo, davanti alla presenza. Il direttore studiava Smith dal centro di una fila di bussole, rivelatori a scintillazione, sismografi e termografi. Le bobine dei nastri giravano, i loro circuiti ronzavano prima del quieto brusio del pensiero elettronico all'opera. Il direttore aveva un solo occhio, il raggio rosso del suo occhio ciclopico senza palpebra giocava sulla faccia di Seldom Sin, scansionando il suo cervello, i suoi nervi, la sua anima. Paralizzato da quel raggio ipnotico, Smith aspettava inerme come un bimbo. Il direttore parlò. La sua voce assomigliava al gemito di un violino elettronico che, nel registro più alto, raggiungeva un do diesis, della stessa nota interna che fece impazzire il sordo Smetana. Smith, cominciò la voce. Sappiamo perché siete qui. Smith deglutì. Dov'è George? Gracchiò. Cosa avete fatto a Bonnie? Questi non sono affari tuoi. Il raggio russo si spostò di lato per un attimo, instabilmente montato su un giunto cardanico nel suo carapace incappucciato. Le bobine dei nastri si bloccarono, tornarono indietro, si fermarono, ripresero ad andare avanti, registrando tutto. Messaggi codificati tremolavano nel placido flusso elettrico trasmesso via transistor attraverso 16.000 km di circuito stampato. Sotto la superstruttura la dinamo ronzava, mormorando il messaggio base: potere, profitto, prestigio, piacere, profitto, prestigio, piacere, potere. Accomannai medico fottero. Seldom seen Smith, disse il direttore, la sua voce aveva preso adesso un'intonazione umana, modellata sembrava sulla voce di un maturo adolescente con la ballata sempre pronta, la cui faccia unisex con la barbetta spelacchiata è apparsa sulla copertina di Rolling Stone 70 volte a partire dal 1964. Dove sono i tuoi pantaloni? Pantaloni? Smith abbassò lo sguardo. Gesù mio benedetto! Il raggio rosso ritornò sulla faccia di Smith. Vieni più vicino, amico, comandò la voce. Smith esitò. Vieni più vicino, Joseph Fielding Smith, informalmente conosciuto come Seldom Seen, nato a Salt Lake City, Utah, capitale delle teste di cazzo dell'Ovest Montano. Non sei tu colui cui fu profetizzato in Nefi 2:1-4, libro di Mormon. Il Signore ordinò a lui, addirittura un sogno, di riunire la famiglia e partire per il deserto. Con ampie provviste, quale burro d'arachidi biologico, e la sua famiglia è composta da un certo Doc Service, un certo George Washington Hydak e una certa Miss Bonnie Hapsook. Qualche lingua da un mondo superiore rispose per Smith con parole che non erano sue. Sono me, capo. Bene, ma sfortunatamente per te, amico, la profezia non può compiersi. Non lo possiamo permettere. Abbiamo decretato, Smith, che tu dovrai divenire uno di noi. Cosa? Quattro bulbi verdi lampeggiarono sui lobi frontali del direttore. La voce cambiò di nuovo, diventando tersa e criptica, decisamente oxfordiana. Prendetelo! Oh, prendetelo! Smith si trovò immediatamente impalato da corde rigide ma invisibili. Ehi! Accennò un debole moto di resistenza. Bene! Attaccate gli elettrodi, inseritegli l'anodo nel pene, completamente, il catodo va su per il canale rettale, mezzo metro, sì, fino in fondo, non fatevi scrupoli. Il direttore impartiva i suoi ordini agli assistenti invisibili che si prodigavano intorno al corpo paralizzato di Smith. Bene, fissate i flip-flop sul suo canale semicircolare, sotto il timpano, così 5.000 volt dovrebbero essere sufficienti. Attaccategli al coccige i conduttori del sensore con la ventosa allo stronzio. Fissateli bene, per Dio! Inserite l'adattatore ad alto voltaggio nelle prese frontali nel suo nodo recettore. La testa! Idioti, la testa! Su, sì, su per le narici! Che sia fissato come si deve! Spingete con forza fino in fondo, così! Molto bene, adesso richiudete gli interruttori automatici. Rapido, rapido! Grazie. Inorridito, Smith tentò di parlare, di protestare, ma la sua lingua, come gli arti, sembrava grippata in una paralisi completa e infantile. Guardò con la bocca spalancata per il terrore i cavi che ora gli collegavano la testa e il corpo al grande computer davanti a lui. «Beh, adesso, Smith», disse il direttore, Forse dovremmo chiamarti Seldom Scanned, scannerizzato. Sei pronto per il tuo programma? Cos'è questo? Calma, calma e coraggio. Lui è un bravo ragazzo. Non hai niente da temere se riesci a superare questo piccolo test che abbiamo preparato per te. Su, chiamate il fonico. Bene, inserite il nastro magnetico. Non c'è una scalonatura per il nastro? Non c'è? Beh, allora fatene una. Tra gli attacchi dell'anodo e del catodo, ovviamente. Su per il vecchio perineo, esattamente. Non vi preoccupate per il sangue, ci penserà Giorgio a pulire tutto dopo. Pronti? Inserire il nastro fino in fondo. Tenetegli giù il piede, per Dio, cosa? Non si tiene, allora inchiodatelo. Bene, bene, bene, così. L'unico occhio del direttore irradiava la ghiandola pineale di Smith. Adesso, Smith, le istruzioni per te. Vogliamo che tu sviluppi la semplice funzione esponenziale y uguale e alla x in una serie infinita. Procedi in questo modo. Bn, trasferisci i contenuti della locazione di memoria n al registro di esercizio tn. Due punti. Trasferisci i contenuti del registro di esercizio alla locazione n, punto e virgola, più n. Aggiungi i contenuti della locazione n ai contenuti del registro di esercizio punto e virgola xn, due punti. Moltiplica i contenuti del registro di esercizio per i contenuti della locazione n punto e virgola più n, due punti. Dividi i contenuti del registro di esercizio per i contenuti della locazione n punto e virgola v maiuscola. Rendi positivo il segno dei contenuti del registro di esercizio, punto e virgola, PN, due punti. Trasferisci l'indirizzo N all'accumulatore se i contenuti del registro di esercizio sono positivi, punto e virgola, RN, due punti. Trasferisci l'indirizzo in locazione N all'accumulatore, punto e virgola, Z, due punti. Termini il programma. È chiaro, Smith? Inebetito come da novocaina, Seldom non riuscì a parlare. Bene, stai pronto. Hai a disposizione 0,00012 millisecondi per calcolare questa operazione elementare. Se sbagli, non avremo altra scelta che trapiantare i tuoi organi vitali in esemplari più adattabili e riciclare i tuoi residui attraverso i crogioli allumimotermici. Sei pronto? Bravo ragazzo, divertiti adesso. Regolate il timer, grazie. Attento Smith, contiamo da 5, via. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Abbassate quel maledetto interruttore. Smith si drizzò sul letto coperto da uno strato di sudore freddo, si voltò e si aggrappò a sua moglie come un uomo che sta per affogare. Sheila! Gemette, lottando per riguadagnare la superficie della coscienza. Mio Dio benedetto! Seldom! Si svegliò di soprassalto. Seldom! Svegliati! Disse Sheila. Sheila! Sheila! Non c'è nessuna qui che si chiama Sheila! Svegliati! Oh, signore! La cercò a tentoni nel buio, sentendo un fianco tiepido, un ventre morbido. Katie? Da Katie eri ieri sera, hai un'altra possibilità ed è meglio che non la sprechi. Tastò più in alto e saggiò i suoi seni, il destro, il sinistro, poi tutti e due. Susan! Così va meglio, disse lei. La visione si adattò alla luce delle stelle e la trovò che gli sorrideva, allungando le braccia per tirarlo a sé nel tepore dell'oro legale letto coniugale. Il suo sorriso, come i suoi occhi dolci, come il suo generoso fondoschiena, era carico d'amore e sospirò sollevato. Susan, Seldon, tu sei unico, troppo forte, non avrei mai pensato. E lo consolò, lo accarezzò e lo amò, il suo uomo tremante ferito. Mentre fuori, nei campi del deserto estivo, Le angurie maturavano senza fretta nel nido dei loro viticci e un gallo, instancabile, appollaiato sul tetto della stia, scaricava la sua prematura eiaculazione alla luna calante e nel pascolo i cavalli sollevavano le loro nobili teste romane per fissare nella notte qualcosa che gli umani non potevano vedere. In una fattoria sperduta nello Utah, USA, sulla sponda di un fiume dorato chiamato Green River. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione.org. Radio Azione. Radio Azione. Radio Azione.